Radio 24 Reportage. Afghani tra ferro e fuoco di Enrico Piovesana. A Lashkar, capoluogo della provincia afghana meridionale di Helmand, il silenzio non esiste più. Il cielo risuona senza sosta del rombo dei cacciabombardieri e degli elicotteri da guerra che volano bassi, avanti e indietro, in continuazione. Li seguono gli occhi attenti di alcuni pazienti dell'ospedale di emergency, usciti in giardino con le stampelle, in carrozzina o direttamente sui loro letti per prendere un po' di aria e di sole, e per raccogliere qualche fiore che poi tengono in mano, annusandolo di tanto in tanto o che si infilano tra le bende delle ferite. Gli afghani amano i fiori. La sensibilità e la dolcezza di questi barbuti contadini pashtun, giovani e vecchi, mette in crisi tutti i nostri preconcetti su questo popolo. Ogni tanto, dalla direzione di Marja, al di là del muro di cinta del giardino e del fiume Helmand che scorre dietro di esso, giunge l'eco di un boato, come il tuono di un temporale lontano, ma più forte, più cupo e più breve. Tra i pazienti ogni volta inizia il dibattito, chi dice che sono bombe sganciate dai jet, chi invece che sono razzi sparati dagli elicotteri, e chi infine è convinto che si tratti semplicemente di mine fatte brillare dai Marines. Attorno a Marja si combatte ancora, ma ufficialmente l'operazione Moshtarak, la più grande offensiva militare condotta dalla NATO in Afghanistan dall'inizio della guerra nel 2001, è conclusa. La roccaforte talebana di Marja è stata riconquistata dai Marines e dalle truppe afghane dopo 2 settimane di combattimenti. La bandiera nero-rosso-verde è tornata a sventolare su questo distretto rurale, vissuto per oltre 2 anni all'ombra del vessillo bianco dei talebani. Un successo, secondo i comandi alleati, che verrà presto replicato su altri fronti, a partire da quello di Kandahar. La battaglia di Marja come primo passo, preludio di una strategia più generale della coalizione, decisa a riprendere il controllo dell'intero sud dell'Afghanistan nei prossimi mesi. Mesi decisivi, che come ha dichiarato il segretario della difesa USA, saranno i più duri per le forze occidentali dall'inizio di questa guerra. Ma lo saranno soprattutto per la popolazione civile afghana, a giudicare dalle testimonianze che Peace Reporter ha raccolto dalla gente di Marja, ricoverato in visita al vicino ospedale di emergency di Lashkar. Non so chi gli ha sparato, ma poco importa. Questa nuova offensiva ha causato tante vittime innocenti, troppe. Sad Maluk, 60 anni, turbante bianco, barba grigia e occhi celesti, è appena arrivato da Marja per far visita al nipote, ricoverato con una brutta ferita da pallottola. Siede con familiari e amici su una panchina sotto il porticato d'ingresso dell'ospedale. Dicono che hanno ucciso per errore solo pochi civili, ma la verità è che hanno ucciso pochi talebani. Io vivo vicino al bazar di Marja e vi posso assicurare che nei primi giorni le bombe sganciate dagli aerei e i missili lanciati dagli elicotteri hanno distrutto molte abitazioni. Da sotto le macerie abbiamo tirato fuori finora circa 200 cadaveri di civili, ma ci sono ancora un centinaio di dispersi sepolti sotto i resti delle case colpite. Ieri ne abbiamo ritrovati altri 5. Queste cose non le dice nessuno, ma vi giuro che è così perché l'ho visto con i miei occhi. L'abbiamo visto tutti. Gli uomini intorno a Sad Maluk scuotono silenziosamente il turbante in segno di assenso. Sono voci che raccontano l'altra faccia di questa guerra, quella che non viene mai raccontata, la paura e la sofferenza, la distruzione e la morte che noi, i Karijan, gli stranieri, portiamo con le nostre bombe e i nostri missili a questa gente. Gente che non si sente liberata, ma aggredita, che preferisce il rassicurante e familiare ordine sociale che i talebani sanno garantire nei territori da essi controllati. Gente che ha il terrore dell'anarchia e dei soprusi dei poliziotti afghani che rubano, taglieggiano e rapiscono, che nemmeno parlano la loro lingua e che per questa gente rappresentano l'unica manifestazione del lontano governo di Kabul. A Marja non si spara più, ma questo non significa che i talebani se ne siano andati o siano stati sconfitti. Hanno solo smesso di combattere per ora. I talebani sono ancora a Marja perché i talebani sono anche gente del posto. Non sono forestieri venuti da fuori, come si vuol far credere. Ci sono anche tanti di noi che stanno con i talebani. E sapete perché? Perché in questi ultimi anni con loro non abbiamo mai avuto problemi. Finché a Marja comandavano loro, tutto andava bene, tutto era tranquillo. Non vogliamo altro. Non vogliamo intrusioni da parte degli stranieri o del governo. Vogliamo solo essere lasciati in pace, così come siamo. Mormorì di consenso percorrono il pubblico di curiosi che si è formato attorno a noi. Uno di loro, un giovane di Marja di nome Ziaulak, viso spigoloso e turbante nero, interviene per spiegare le parole del Baba, come vengono chiamati gli anziani in segno di affettuoso rispetto. Ora Marja è tornata a comandare la polizia afghana, come prima che arrivassero i talebani. Noi più che degli americani abbiamo paura dei poliziotti afghani, di questi criminali che girano con i fuoristrada verdi e si comportano da padroni. Rubano le nostre cose, ci estorcono denaro e chi si ribella viene arrestato e denunciato come talebano. E fanno anche di peggio, come rapire i nostri bambini per poi abusare di loro. Da quando oltre 2 anni fa Marja è passata sotto il controllo dei talebani, tutto questo non succedeva più. I talebani ci rispettavano e rispettavano le nostre proprietà e le nostre usanze. Garantivano la sicurezza, amministravano la giustizia con i giudici delle corti islamiche e facevano rispettare le nostre leggi islamiche. Noi stavamo bene perché ci sentivamo sicuri, non subivamo più i furti e gli abusi di quei banditi in divisa. Se i nuovi governanti di Marja faranno altrettanto, se rispetteranno la nostra gente e la nostra religione lasciandoci vivere e lavorare in pace, a noi andrà benissimo. Ma ora che sono tornati gli uomini sui fuoristrada verdi, abbiamo paura. Abdul Wali ha solo 35 anni, ma è già vedovo da 3 e padre di 4 figli. Fino a pochi giorni fa, prima dell'operazione Mushtarak, di figli ne aveva 6. 2 di loro, Sadiq e Zrat, di 8 e 9 anni, sono morti, dilaniati da un razzo americano caduto per errore nel cortile della loro casa, a Marja. Gli occhi di Abdul sono quelli di un padre disperato. Siede tra i letti su cui giacciono, mutilati e feriti, altri 2 suoi bambini, Najib e Nakib, di 5 e 7 anni, sopravvissuti per miracolo all'esplosione. Lui li copre di baci e carezze, le infermiere fanno altrettanto, ma questo non serve a far tornare il sorriso sui loro piccoli visi feriti, né a far passare gli incubi che li fanno piangere di notte. Quando sono scoppiati i combattimenti con le pallottole che colpivano i muri di casa e i bambini che piangevano per i rumori che sentivano, ho deciso di portar via da Marja i miei 6 figli. Dopo alcuni giorni, quando ci hanno detto che la situazione in città era tornata tranquilla, siamo tornati. In effetti era tutto calmo, almeno così sembrava. Un paio di giorni più tardi i miei figli erano in cortile a giocare quando c'è stata un'esplosione. Sono arrivati dei soldati americani, hanno raccolto i frammenti del razzo, ammettendo che era roba loro, hanno scattato delle foto ai miei 2 bambini morti, Sadiq e Azrat, e poi hanno portato via Najibullah e Nakibullah caricandoli su un elicottero. Mi hanno detto che li portavano all'ospedale militare di Camp Bastion e non hanno aggiunto altro. Chiediamo ad Abdul se nei giorni successivi i militari USA non siano tornati, magari per offrirgli un risarcimento, come di solito avviene in questi casi. Sì, i soldati americani si sono ripresentati 2 giorni fa, dicendo che l'incidente è stato causato da un razzo americano inesploso che i miei figli avevano raccolto per giocare e che poi sarebbe scoppiato. Io non lo so, non ho visto come sono andate le cose. Mio figlio maggiore mi ha detto che loro non avevano raccolto nessun razzo. Io so solo che i miei figli sono morti per colpa degli americani. Abdul non aggiunge altro e torna ad accarezzare i suoi bambini. Barangul è un ragazzone di 26 anni, con gli occhi buoni e tristi, il ventre bendato. È arrivato qui pochi giorni fa, in fin di vita, con 4 pallottole in corpo. Quando sono iniziati i combattimenti, i talebani ci hanno consigliato di prendere le nostre cose e andarcene via. Dopo 3 giorni la situazione era tornata abbastanza calma e io ho preso il mio motorino e sono tornato a casa. Non sapevo che gli americani l'avevano trasformata in una loro postazione. L'ho capito solo quando, senza nessun preavviso, un soldato sul tetto mi ha sparato 1, 2, 3, 4 volte. Sono caduto a terra, ferito. Ho alzato la mano per chiedere aiuto, ma i soldati non si sono mossi. Allora mi sono trascinato fino alla casa più vicina, dove sono stato soccorso da mio zio. Perché tutto questo? Per 2 anni abbiamo vissuto una vita normale, tranquilla e sicura per noi, per i nostri figli e le nostre proprietà. Noi non chiediamo altro. Abdulwaf ha 35 anni, barba lunga e capelli rasati, è arrivato qui all'ospedale di Emergency con un razzo di 1 metro, inesploso, conficcato nella schiena. Lavoravo nel campo quando sono scoppiati i combattimenti. Gli elicotteri hanno iniziato a sparare missili e i talebani a sparare a razzi. Ho iniziato a correre verso casa, ma un proiettile di RPG mi ha colpito alla schiena. Questa operazione, come le altre che l'hanno preceduta, ha ucciso e ferito tante persone innocenti, ha danneggiato e distrutto le nostre case. Perché dobbiamo subire tutto questo? Che senso ha? Abdul è morto pochi giorni dopo, stroncato da una meningite fulminante. La punta del razzo gli aveva fratturato la colonna vertebrale, infettando il midollo osseo. I Karijan, gli stranieri, erano venuti a portargli la libertà. Lui, come tanti altri, voleva solo continuare a vivere, in pace.